Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Martedì prossimo, 15 settembre, il mercato finanziario ricorderà uno dei momenti più terribili mai vissuti, il crack della banca d'affari americana Lehman Brothers, una situazione, ce lo ricordiamo bene, che mandò in tilt la borsa da quel momento in avanti, in vertiginosa discesa fino allo scorso marzo, quando poi ha cominciato a recuperare il mercato finanziario. A quel punto, lo ricorderete, un anno fa si paventò addirittura anche la possibilità di fermare per qualche giorno le negoziazioni. Poi si scoprì anche qualcosa, se possibile, di ancor peggio, cioè che migliaia di famiglie di risparmiatori italiani avevano in mano prodotti di investimento legati alla banca americana. Obbligazioni, Lehman o polizze, i cui risultati in termini di rendimento erano agganciati ai titoli della banca statunitense. Oggi, ad un anno di distanza da quel crack di cui stiamo subendo ancora le conseguenze, perché la situazione sui mercati si è tutt'altro che normalizzata, torniamo a fare un po' il punto della situazione per capire come si stanno muovendo le banche italiane e i risparmiatori italiani, appunto, che abbiamo definito questa mattina in sospeso sui titoli Lehman. Abbiamo anche un altro caso aperto all'Italia. Il 31 agosto è stato l'ultimo giorno utile per convertire le vecchie obbligazioni con i titoli di Stato secondo il piano di risarcimento stabilito dal governo. Faremo il punto della situazione anche su questo con i nostri ospiti questa mattina: l'avvocato Edoardo Spano, professore di diritto commerciale, avvocato in Milano, e con Fabio Piccioni, segretario nazionale della Dicomsum. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, le vostre domande. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Mercato finanziario, lo abbiamo citato più volte nel preambolo della nostra trasmissione, oggi è positivo, almeno in questo momento. La partenza è stata un po' più a rallentatore per le borse europee, che non si discostavano nelle prime ore molto dalla parità. Adesso abbiamo invece un guadagno di mezzo punto a Londra, a Francoforte, a Milano, Parigi un po' più indietro, più 0,3%, ma in queste ore gli operatori stanno un po' più concentrandosi sul mercato valutario, con l'euro che sta schiacciando il dollaro a 1,4492, dollaro che si è indebolito per la verità nei confronti di tutte le altre divise, il petrolio a 71 dollari al barile, l'oro, ne abbiamo parlato questa mattina a Soldi e Dintorni, oltre i 100 dollari l'oncia, 1000 dollari scusate l'oncia da ieri sul fixing di Londra. E a Piazza Affari un'occhiata ai titoli in maggior movimento: il Banco Popolare più 3,79, Pirelli più 3,68, Buzzi Unicem più 3, Prismian più 2,36, segno meno invece su Geox che perde 2 punti, Bulgari meno 1,76, 6 STM meno 1,38 e Luxottica che perde mezzo punto. Sono proprio i titoli un po' più condizionati dall'indebolimento del biglietto verde. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Ricordiamo brevemente tutto ciò che è successo alle famiglie italiane con il crack della banca d'affari americana Lehman Brothers. A un anno esatto di distanza dal fallimento di Lehman Brothers, le sorti dei risparmiatori coinvolti nel crack della banca statunitense sono ancora incerte. Se per i sottoscrittori di polizze indicizzate, gli istituti coinvolti, da Mediolanum a Unicredit Vita, da Fonsai a Banco Popolare, si sono mossi a tutela della propria clientela, per quanto riguarda i possessori di obbligazioni, stimati in Italia in oltre 300.000, la situazione appare più complessa e i tempi decisamente più lunghi. La strada per ottenere un rimborso, comunque incerto perché soggetto all'accertamento della consistenza dell'attivo patrimoniale dell'istituto, è la richiesta di insinuazione al passivo, da fare entro il prossimo 2 novembre. Solo in questo modo si può infatti maturare il diritto ad essere iscritti nella lunga lista dei creditori della banca. Ma casi irrisolti come questo non mancano. Se i possessori di bond General Motors sono in attesa di capire quale sarà la sorte della casa automobilistica, qualche passo avanti è stato fatto per quanto riguarda gli obbligazionisti di Alitalia. Lo scorso 31 agosto è scaduto infatti il termine per accettare i rimborsi proposti dal Tesoro a favore degli obbligazionisti della compagnia aerea, mentre il 28 agosto è scaduto il termine per cedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le azioni Alitalia al prezzo medio di borsa dell'ultimo mese di quotazione, dimezzato del 50%. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. È già pronto un ascoltatore di Palermo che si chiama Riccardo. Riccardo, buongiorno. Ah, buongiorno. Adesso grazie per avermi richiamato. Le faccio fare la sua domanda, così cominciamo con l'avvocato Spano subito a capire nel concreto a che punto sono i nostri risparmiatori. Volevo però rivolgere un altro raccomandazione ad un altro ascoltatore che invece ci ha scritto, Maurizio da Pistoia, al 349 238 6666, che vorrebbe avere notizie sui Tango Bond, ha anche titoli General Motors. Maurizio, stamattina non riusciamo a mettere tutto insieme perché lei può comprendere, per ogni tema andrebbe riservata una trasmissione. Allora io vi prometto che ritorniamo presto anche su questi altri casi, ancora piaghe, possiamo definirle così, per molti risparmiatori italiani. Riccardo, subito la sua domanda, così entriamo immediatamente nel concreto con l'avvocato Spano questa mattina a nostra disposizione. Ci dica. Sì, grazie. La banca abbia venduto delle obbligazioni Lehman Brothers solo 4 mesi prima del fallimento e non mi ha sottoposto, né io ho firmato, il modulo MiFID prima della vendita. Vorrei sapere se ho delle possibilità di rimborso per via legale, dato che la banca me lo ha negato. Allora Riccardo, quindi da quello che abbiamo capito ha già, avvocato Spano, questo ascoltatore, intrapreso un'azione ben precisa nei confronti dell'istituto bancario che è stato l'intermediario di questo investimento. Cominciamo da questo, cominciamo per ordine dall'altra questione, della liquidazione della società che è in corso negli Stati Uniti e che permetterà anche ai creditori italiani di fare questa operazione che si chiama insinuazione al passivo. Ne abbiamo citata tante volte con Parmalat, con Alitalia, ma dobbiamo forse ricordare ancora di che cosa si tratta, avvocato. L'insinuazione al passivo è semplicemente l'istanza che fanno tutti i creditori di qualunque genere, quindi ex dipendenti, fornitori eccetera, i quali devono semplicemente segnalare all'organo che gestisce la procedura il loro credito affinché si faccia evidentemente il totale del passivo della procedura, e fra i quali verrà distribuito l'attivo che verrà ricavato dal patrimonio della società fallita. Quindi è semplicemente una modalità che va eseguita, mm-hmm. E nel caso specifico di Lehman Brothers avrà termine nel 2 novembre del 2009. Di quest'anno. A questa insinuazione al passivo le banche italiane hanno ottenuto il diritto di poter insinuarsi, per l'appunto, mi sembra. Questa è stata una notizia recente, anche piuttosto importante. Beh, dunque bisogna fare innanzitutto una distinzione, cioè le obbligazioni Lehman circolanti in Italia fanno capo a una società Lehman olandese che è anch'essa fallita naturalmente, ma in cui l'ammissione al passivo ancora non è stata decisa e quindi lo sarà sicuramente almeno nell'anno prossimo. Però questi titoli in genere erano anche garantiti dalla capogruppo americana Lehman, e quindi la capogruppo americana invece ha fissato la data appunto del 2 novembre prossimo per l'ammissione a passivo, in quanto garante risponde anch'essa delle obbligazioni in circolazione. Naturalmente sarebbe oltremodo oneroso per i singoli possessori di 10-20 mila euro di obbligazioni fare direttamente la procedura. Quindi le banche italiane, attraverso l'ABI, si sono assunte l'impegno di fare loro una procedura unica, collettiva, per tutti i portatori di obbligazioni, anche per le obbligazioni stesse rimaste in mano alle banche, mm-hmm. E quindi questa è un'operazione gratuita che verrà fatta dalle banche per conto dei loro clienti e che non richiede nessuna firma o nessun assenso da parte del cliente stesso. No, tra l'altro, avvocato Spano, questo è proprio l'oggetto di questa comunicazione che a molti clienti bancari in questo periodo è arrivata a casa, questa informativa da parte della banca avente ad oggetto proprio informazioni relative ai titoli obbligazionari emessi dal gruppo Lehman Brothers. Quindi in sostanza le banche hanno detto: ecco, noi siamo a questo punto, quello che lei ci ha spiegato fino a questo momento. Ecco, c'è soltanto un aspetto da tenere presente, cioè che da un lato il cliente potrebbe manifestare il suo dissenso, questo entro il 30 settembre, però certamente in linea di massima non c'è nessun interesse a manifestare questo dissenso, perché altrimenti uno viene escluso dal riparto del patrimonio della capogruppo americana, e quindi questo è sicuramente un danno per il portatore. C'è però un problema da chiarire, che è questo, cioè che per ragioni procedurali, per ragioni diciamo di gestione di questa massa immensa di titoli, si pensi che le emissioni di Lehman Brothers complessivamente sono di 4.000 circa emissioni, quindi numeri eccezionali. È chiaro che per ragioni procedurali la procedura ha fissato che i titoli siano intrasferibili, cioè non vendibili e neppure trasferibili da una banca a un'altra per il limitato periodo dal oggi fino al 2 novembre prossimo, mentre l'ABI nella sua circolare ha esteso questo periodo fino alla fine della procedura, e che probabilmente si verificherà fra almeno 3 anni se non più. Quindi il problema è che eventualmente chi non manifesta il suo dissenso si trova poi di fatto nella impossibilità, perlomeno secondo l'ABI, di trasferire il titolo, a meno che evidentemente non decida di venderlo prima del 30 settembre. In ogni caso ci sembra, come diceva, un'ipotesi abbastanza improbabile quella che un risparmiatore possa esprimere il suo dissenso, però non è detto che voglia, come dire, camminare se lo, di pari passo. Se lo vuol fare, lo deve fare tassativamente entro il 30 settembre potrebbe prossimo. Essere Fabio Picciolini che magari un risparmiatore decida di denunciare la banca, questo potrebbe essere anche possibile, no? E quindi forse in questo caso potrebbe valere il dissenso, non so che cosa ne pensa. Non c'è connessione fra i due problemi. Non c'è connessione. Il problema Picciolini, magari qui richiamo lei, è che noi ci ricordiamo quello che è successo proprio per la questione dei Tango Bond, quando l'ABI si è incaricata di portare gli interessi dei risparmiatori italiani a Washington, alla Banca Mondiale, all'ICSID, ha detto: se voi venite con me, quindi con questa task force istituita proprio dall'ABI, non potete poi fare causa alla banca, quindi solo lì ho che ne dice? Sì, no, il concetto è abbastanza lo stesso. Innanzitutto buongiorno all'ascoltatore. Buongiorno anche a lei. Il concetto è un pochino lo stesso, chiaramente. La scadenza detta dall'avvocato in precedenza è il 2 novembre e sinceramente in questo caso è consigliabile appoggiarsi alla banca, perché una procedura presso il Tribunale di New York ovviamente avrebbe un costo estremamente elevato, e sappiamo perfettamente che l'importo medio di questo tipo di investimento è abbastanza basso, per cui forse il gioco non varrebbe la candela. È possibile comunque, questo è stato previsto appunto da questo Tribunale di New York, che chi non vuole possa rivolgersi sia direttamente alla preinsurazione, al passivo. Le procedure sono in corso. Ecco, quello che è importante dire è che non è perché il 2 novembre c'è l'ultima data tutto vada di corsa, anzi sono stati già allungati i termini per la presentazione della documentazione ufficiale, per la conclusione della presentazione della documentazione ufficiale già a maggio 2010. Se vogliamo dare una piccolissima buona notizia agli ascoltatori, è che rispetto alle prospettive iniziali in cui si parlava di un riparto finale intorno all'8-9%, tutti gli indicatori in questo momento dicono che le attività di Lehman sono un pochino più alte, e anche per quello che ho detto anche poc'anzi, cioè della doppia garanzia europea e della casa madre statunitense, il livello minimo è intorno al 20%, ma ci sono titoli che già sono quotati ovviamente fuori mercato intorno al 30%, quindi ci si aspetta una situazione un pochino meno brusca, meno brutta di come si pensava inizialmente. Inizialmente, benissimo. Allora, tra l'altro non abbiamo nel frattempo risposto a Riccardo da Palermo, mi riservo di rispondergli, visto che lui aveva un caso abbastanza particolare, cioè il fatto di aver sottoscritto questo investimento proprio a ridosso del crack, se questo lo può mettere in una condizione di recupero diversa rispetto a tutti gli altri. Volevo poi rispondere ad un ascoltatore che dice: non è vero che i risparmiatori non hanno perduto niente, vedi rimborsi Unicredit per Index Lehman. Nico da Foggia, adesso cerco di interpretare meglio la sua domanda. Sì, è vero, le proposte delle società di assicurazione appunto che hanno venduto queste polizze non sono state di un risarcimento integrale, ma sicuramente avete perduto molto meno rispetto a quanto non abbiano perduto coloro che hanno sottoscritto direttamente obbligazioni, e sicuramente i casi di Unicredit sono stati quelli un po' più problematici, perché sono stati ritenuti meno soddisfacenti le proposte di risarcimento rispetto a quanto hanno fatto altre banche e altre compagnie di assicurazione. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Io volevo salutare Gianluca, che al 349-238-6666 ci scrive: ma stamattina non avete proprio nulla di cui parlare. Beh, probabilmente lei non ha in portafoglio questi prodotti di investimento che si sono volatilizzati probabilmente probabilmente, come per magia, in questi anni, e fra questi molte famiglie italiane si sono trovati in portafoglio titoli della banca americana fallita quasi un anno fa, Lehman Brothers, obbligazioni, oppure polizze vita i cui rendimenti erano agganciati ai titoli della banca americana fallita. E allora, siccome le abbiamo definiti stamattina risparmiatori in sospeso, come molti altri incappati negli ultimi anni nei clamorosi crack finanziari che ci hanno riguardato, abbiamo ritenuto di voler fare un punto della situazione anche per loro. Ci sono delle scadenze, la possibilità entro la fine del mese di avviare istanza di ammissione al passivo, come abbiamo detto poco fa con il professor Edoardo Spano, che questa mattina, docente di diritto commerciale, ci sta aiutando ad orientarci un po' in questa situazione che è intricata e non poco. Professor Spano, che è anche avvocato in Milano, abbiamo però sentito il caso dell'ascoltatore di Palermo che ci ha detto, ci ha chiesto insomma di fare un po' di chiarezza sulla sua situazione. Lui ha acquistato queste obbligazioni a 4 mesi dal crack della banca americana. Questa precisazione temporale lo pone in una situazione diversa rispetto ad altri che magari avevano lo stesso investimento ma sottoscritto mesi prima, a suo avviso? Perché lui vorrebbe muoversi con un'azione legale diretta verso la banca. Sinceramente non credo che questo dovrebbe avere un altissimo rilievo, piuttosto un molto rilievo secondo me un'altra cosa che aveva segnalato l'ascoltatore, cioè il fatto che lui non aveva ancora sottoscritto il nuovo contratto con la banca ai sensi della direttiva MiFID, e quindi evidentemente era ancora legato da un contratto di negoziazione redatto secondo il testo originario della finanza. A questo punto io non esprimo mai un'opinione su fatti isolati, ma soltanto dopo un esame accurato di tutta la documentazione del rapporto, certo, perché in tutti i documenti può emergere un qualche fattore positivo o negativo. Ormai le cause in materia di risparmio tradito, come è stato definito, sono migliaia. Qualunque aspetto, anche il più minuto, è stato dibattuto sia dalle banche, c'è una giurisprudenza ricchissima sia dai difensori, che si è formata in questi anni. Diciamo, solo il Tribunale di Milano io ho circa più di 400 sentenze su questo argomento, quindi evidentemente qualunque minimo aspetto va considerato. Però certamente il fatto che non siano, almeno secondo quanto dice l'ascoltatore, siano invocabili le norme precedenti al MiFID, che erano certamente assai più favorevoli ai risparmiatori, questo certamente potrebbe essere un grosso punto da utilizzare in una eventuale causa contro la banca. Vale la pena forse farsi una chiacchierata anche in questo caso con un legale che ne sappia un po'. Allora, visto che abbiamo citato anche Alitalia, naturalmente gli ascoltatori sono corsi a prendere il telefono, a chiamare all'800240024, perché rispetto a questo piano di rimborso che il governo ha proposto e concretizzato poi fino al 31 agosto, forse qualcuno, qualche notizia è rimasta un po' indietro. Antonio da Roma, buona giornata, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Senta, io ho una semplice domanda. Non ho fatto in tempo a firmare per il 30 agosto. Che mi succede? Perdo tutti i soldi o posso sempre fare ricorso? Perché non ha fatto in tempo, Antonio? Perché? Noi abbiamo fatto tante trasmissioni per raccomandarvi, per aiutarvi ad orientarvi nelle date. Perché? Perché io non ero a Roma in quel periodo. Va bene, allora sentiamo un po' Fabio Picciolini. Allora, l'ascoltatore Picciolini ha citato questa scadenza, quella del 31 agosto, che è stato l'ultimo giorno utile per lo scambio dei titoli obbligazionari ad Italia e vecchi Mengozzi Bond in questi titoli di Stato, che sono l'oggetto praticamente del piano di scambio proposto dal governo. Allora, purtroppo la legge è molto chiara, giorno ultimo è indifferibile il 31 di è stato il 31 di agosto ultimo scorso. Siccome nella situazione del signore dell'ascoltatore ce ne sono almeno un centinaio, proprio in questi giorni abbiamo preparato come di consolo una lettera per convincere il ministro Tremonti, non so con quale successo, chiaramente a riaprire i termini magari per 15 giorni, per 20 giorni questa strada, perché non sono tantissimi, ma ripeto, se solamente noi ne abbiamo un centinaio fra email, lettere e telefonate, immagino che un migliaio di persone siano rimaste fuori. No, perché quello che voglio dire io è che già l'azionista non avrebbe avuto teoricamente diritto a nessun tipo di risarcimento. Già che si è aperta questa opportunità, ce la siamo fatta scappare anche così, adesso io non vorrei essere cattiva, però stamattina vorrei anche un po' esserlo, Picciolini. Purtroppo sì, ecco, bisogna stare un attimino più attenti, concordo con lei. Agosto è un bel mese, per cui probabilmente le persone non hanno pensato di andare a vedere la posta a casa mentre magari erano al mare in montagna. Noi come consumatori chiaramente dobbiamo cercare di essere un po' meno cattivo, come rappresentanti di consumatori dobbiamo essere un po' meno cattivi. No, ma ci mancherebbe, io li proteggo sempre moltissimo i miei ascoltatori, però visto che si era aperta questa chance. Bisogna stare un attimino più attenti, ripeto, stiamo facendo questo tentativo, non voglio dare false speranze, è solo un tentativo. Peraltro però magari possiamo ricordare i termini del rimborso, Picciolini. Gli azionisti di Alitalia quali percentuali potranno vedersi risarcire? Allora, rispetto al proprio investimento È molto semplice, do anche la cifra in assoluto perché forse è più utile. La percentuale è il 50% della media degli ultimi 30 giorni di negoziazione. In assoluto, che è la cosa più importante, sono 0,2722 euro per ogni azione. Qui la situazione ovviamente è molto, molto variegata rispetto agli azionisti, perché c'è gente, ci sono piccoli risparmiatori che l'hanno comprata a 5 euro, come c'è chi l'ha comprata a 2, io il caso più piccolo che ho è 0,77, quindi c'è chi perderà circa il 90-95% e chi invece perderà solo un 30-35%. 800-24-0024 è il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi questa mattina. Professor Spano, ovviamente qui abbiamo parlato di azioni all'Italia, ma credo che sia l'unico caso in cui azionisti di una società che non c'è più abbiano il diritto ad ottenere qualcosa. Sicuramente non è una prospettiva che riguarda i vecchi azionisti Lehman Brothers questa. No, questo è escluso, tant'è vero precisiamolo che, subito. Certamente, tant'è vero che nella procedura americana non è stata neppure prevista la possibilità di fare un'insinuazione al passivo, perché è escluso a priori che ci sia un riparto. Mentre per completezza di informazione possiamo dire che se si tratta di crediti diversi dalle azioni e obbligazioni, tipo derivati, tipo ex dipendenti, eccetera, questi devono fare una istanza di emissione passivo individuale a questo punto, però il termine in questo caso scade il 22 settembre prossimo, quindi è vicinissimo, e quindi evidentemente anche in relazione ai costi elevati di una iniziativa individuale tramite uno studio ovviamente americano, potrebbe essere consigliabile solo in casi di cifre molto elevate. Ci sono dei casi anche italiani, di risparmiatori italiani in possesso di derivati Lehman Brothers? Ma io sappia sì, non moltissimi, ma alcuni. Che tipo sì. di prodotti sono, avvocato, professore? Beh, di preciso non lo so, però sicuramente ci sono e evidentemente, però sono appunto basati direttamente su derivati e non tramite né polizze assicurative né obbligazioni. Allora, Mario da Pistoia, benvenuto. Sì, grazie. Senta, io ho delle obbligazioni della Lehman Brothers comprate tramite il Banco Posta. Sì. A me il Banco Posta, visto che stiamo arrivando alle ultime battute qua, marzi, mi ha scritto una lettera che mi deve inviare il modulo dell'ABI. E invece non è arrivato niente. Dell'ABI mi devo fare carico totalmente di andare in America io a fare l'insinuazione, ma a me mi sembra che sia una cosa inconcepibile. Beh sì, infatti Mario, ci piacerebbe anche a noi magari dare così un'occhiata, se lei ha modo ce la mandi al nostro indirizzo salvadanaio@radio24.it per capire come mai addirittura il Banco Posta le chieda un'iniziativa diretta, professor Spano. Ma evidentemente il Banco Posta non ha aderito all'iniziativa ABI, cioè non ritiene, a meno che invece il modulo, la comunicazione che è pervenuta all'ascoltatore non sia invece quella comunicazione che dice che lui può esprimere il suo dissenso entro il 30 settembre, rimanendo intesi che se non esprime il suo dissenso automaticamente la banca procederà per lui come per tutti gli altri all'insinuazione collettiva al passivo. Sentiamo Fabio Picciolini se ha qualche informazione in più rispetto all'iniziativa di Banco Posta. Le risulta... purtroppo le OE sono anche peggiori, perché non è solamente Banco Posta, ma non esiste un obbligo per le banche di agire in funzione in nome del proprio depositante titoli. L'obbligo che abbia dato è quello di, diciamo così, di informare in maniera completa, più che abbia addirittura stato il tribunale americano per essere più esatti, vanno informati tutti gli obbligazionisti e tutti coloro che hanno titoli Lehman, ma non c'è obbligo di, diciamo così, di essere, di sostituirsi al singolo risparmiatore. Quindi alcune banche, adesso non so dirle i nomi purtroppo, quindi eventualmente comunque siamo a disposizione. Sì, ma poi le recuperiamo, sì certo. Esatto. Comunque insomma le risulta che sia successo anche in altre città. Anche alcune banche non daranno solamente l'informazione, ma non agiranno in nome per conto dei propri depositanti. Che cosa facciamo fare a Mario? Lo facciamo iscrivere ad un'associazione dei consumatori? Perché è chiaro che imbarcarsi in un'avventura americana, magari il gioco non vale neanche la candela, magari ha un investimento tale per cui, come dire, l'onere sarebbe molto più alto rispetto a quanto potrebbe riottenere in termini di risarcimento, Picciolini. Sì, io sarei molto felice di farlo iscrivere alla mia associazione, questo è evidente, e io quello che posso fare, a prescindere dall'adesione, è evidente che oggi stesso sentirò un attimino Poste Italiane per vedere se magari hanno ripensato a questa situazione, ovvero se potranno ripensarci prima del 30 settembre. Esatto, perché poi tra l'altro per le loro polizze vita un'iniziativa di risarcimento loro l'hanno studiata e avviata, poi con tutta magari la scontentezza vostra, però ecco qua siamo in una situazione diversa. L'ascoltatore ha comprato obbligazioni con BancoPosta. Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte di Salvadanaio e ancora qualche precisazione in merito al caso Lehman Brothers. Martedì prossimo dovremmo celebrare questo triste anniversario, ne avremmo fatto volentieri a meno un anno fa. Questa banca d'affari dalle autorità americane veniva lasciata fallire, veniva lasciata finire in bancarotta, dico veniva lasciata fallire perché in sostanza qualcuno poi ritenuto con il senno di poi che si è trattò di un errore dato tutto il dissesto che provocò anche sui mercati finanziari, ma magari per certi casi è stata anche una bella lezione che il mercato ha appreso amaramente. E allora obbligazionisti e detentori di prodotti di investimento agganciati a Lehman Brothers in sospeso, qual è oggi la situazione? Ne stiamo parlando stamattina con il professor Edoardo Spano e con Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. C'è un'altra precisazione che rispetto ad una cosa che abbiamo già detto all'inizio un ascoltatore ci chiede ed è Renato da Bergamo. Renato, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Renato. Posso? Sì, certo. Io volevo chiedere, se entro il 30 di settembre non do comunicazione alla mia banca, l'iscrizione al passivo è automatica, giusto? Sì, da quello che ci risulta, sì. Ecco, questo fatto preclude poi qualsiasi mia rivalsa tipo legale sulla banca stessa per come questi titoli siano arrivati nel mio dossier o no? Grazie Renato, è perché è un dubbio che ci siamo posti anche noi. Professor Spano, niente è stato detto a questo proposito. E appunto diciamo che il precedente che lei stessa ha richiamato prima dell'Argentina in questo caso non è stato evocato in nessun modo dall'ABI, quindi questo è un servizio gratuito che le banche, se seguono l'indicazione dell'ABI, effettueranno, ma non in contropartita di una rinuncia, perlomeno non è detto in nessun modo che ci sia richiesto al cliente di rinunciare alla eventuale azione di danni propria nei confronti della propria banca. Professor Spano, io so che a lei non piace esprimere dei giudizi personali, io però adesso gliene chiedo uno, ma non è tanto un giudizio quanto così anche, come dire, una prova rispetto alla sua esperienza. Secondo lei ci potrebbero essere dei casi in cui sarebbe molto evidente la necessità di intraprendere un'azione legale contro la banca con la quale, in qualità di intermediario, abbiamo sottoscritto un'obbligazione Lehman? Ma dipende appunto, casi sono tutti uno diverso dall'altro generalmente, appunto perché siccome ci sono una serie di problematiche. Il caso classico della novantenne che ha tutto il risparmio investito in queste obbligazioni, casi estremi così non ce ne sono però. Non è vero, non è perché detto. Io la buona parte dei miei clienti sono tutti intorno agli 80 anni, ma non è tanto il fatto dell'età del cliente quanto anche che cosa gli è stato proposto. Per esempio certe volte c'è una palese malafede del promotore finanziario. Ci sono, ripeto, un'infinità di aspetti, anche di minimo dettaglio, che invece hanno un rilievo anche decisivo in un'eventuale causa, per cui non si può fare assolutamente un giudizio a prioristico o diciamo per grossi aggregati. Bisogna analizzare il singolo caso, tutta la documentazione, come si è svolto il rapporto, e naturalmente tutto può avere un'influenza e quindi non è certamente da escludere. Ripeto, un fattore importante può essere quello appunto del MIFID, nel senso che siccome il MIFID ha notevolmente alleggerito, diciamo, gli obblighi delle banche, quindi è chiaro che una causa in vigenza di un contratto MIFID ha parte, diciamo, con un aspetto negativo. Quelle invece con il contratto ancora precedente, quindi anche gli acquisti risalenti negli anni, non quelli dell'ultimo periodo, ma quelli, diciamo, risalenti a un'epoca anteriore alla direttiva MIFID, quelli certamente hanno molte più chance, perché ci sono una serie di argomenti che si possono invocare appunto ante MIFID che hanno un peso decisivo nella controversia. Se posso dire una statistica buttata lì, diciamo, io sono un collezionista di sentenze in materia di tutti i tribunali d'Italia e devo dire che l'esito dei giudizi è grosso modo 50-50 a favore delle banche e a favore dei risparmiatori. No, tanto anche per citare magari i suoi primati, chiamiamoli così. Questo non è mio, perché non dovrei dirlo, ma io normalmente le cause le vinco. Quindi il 50-50 non è mio, il 50-50 è su tutte le sentenze che io ho, che sono oltre 500 di tutti i tribunali d'Italia, e su queste, diciamo, la statistica si aggira sul 50%. La mia personale è tutta un'altra cosa. No, ma certo, non volevo soffermarmi su questo aspetto, ci mancherebbe, so che è una persona molto molto modesta, oltre che estremamente competente. Peraltro abbiamo citato più volte questa direttiva MIFID, questa direttiva sui servizi finanziari, che è stata recepita dal nostro ordinamento un anno e mezzo fa, forse due, adesso non me lo ricordo bene. Detto questo, è quella che dovrebbe obbligare in qualche maniera, tanto per spiegarlo a chi non la conosce, avvocato Spano, professor Spano, obbligare la banca a venderci dei prodotti di investimento che siano assolutamente opportuni, come dire, adeguati alle nostre esigenze, alle nostre capacità di risparmio, alla nostra attitudine a risparmio. Ma io non sono d'accordo su questo, nel senso che certamente gli obblighi di adeguatezza e in generale di trasparenza, di informazione, eccetera, secondo me erano molto più marcati nella versione precedente, mentre in questo, per, diciamo, l'operazione normale, cioè di semplice compravendita di titoli, gli obblighi della banca sono sicuramente inferiori e quindi, diciamo, responsabilizza la direttiva un po' più l'investitore, certamente, ecco. Cioè, perlomeno, diciamo, gli dà meno argomenti per attaccare la banca. Quindi, diciamo, sicuramente e le cause, che sono poi quelle che adesso vanno ancora in decisione, cioè quelle su Cirio, Parmalat, FIMAC, eccetera eccetera, certamente hanno dei presupposti più favorevoli dal punto di vista normativo che non quelle che eventualmente si basassero sulla direttiva MIFID. Certo, non è comunque la trasmissione sulla MIFID, magari avremo un'altra volta occasione di tornarci. Qua abbiamo due domande e purtroppo appena due minuti prima di chiudere la trasmissione. Carlo da BL, rapidissimo, poi vado a Fabio Picciolini. Carlo. Dunque, salve, io posseggo 12.000 euro di obbligazioni Lehman che sarebbero scadute a novembre 2008, due mesi dopo il fallimento. Le mie domande sono due. Primo, con 12.000 euro mi conviene affidarmi alla banca o a qualche associazione? E secondo, se l'obbligazione è già scaduta, segue lo stesso iter dell'obbligazione ancora in corso? E infatti, grazie mille Fabio, Carlo, anzi, che stiamo già chiamando Fabio Picciolini. L'insinuazione del passivo tramite la banca è gratuita, quindi io non credo che il valore, che sia più o meno importante, insomma, dell'investimento pregiudichi la scelta di una strada piuttosto che di un'altra. La banca deve far tutto gratuitamente, intanto. Vigilerete. Allora, la banca che farà questo servizio lo dovrà fare totalmente in maniera gratuita. Come dicevamo poc'anzi, non è detto che tutte le banche offrano questo servizio. La data ultima che si rende riferimento per gli investimenti è il 15 settembre 2008, quindi se ho capito bene la telefonata che sentivo un pochino male, è 12 settembre ha comprato l'ascoltatore, quindi rientro tranquillamente. Erano obbligazioni che scadevano a novembre dello scorso anno. Appunto, sentivo poco bene. Comunque, diciamo, ecco, per partecipare all'insinuazione al passivo sono tutte le operazioni, tutti gli acquisti fatti prima del 15 settembre 2008. L'importo di 12.000, sì, sinceramente non mi sento sentirei mai di consigliare di spendere tanti soldi per affidarsi a uno studio italiano che dovrà avere una domiciliazione presso uno studio americano e via dicendo. Mi sembra veramente un costo troppo elevato per l'importo, per l'ammontare dell'investimento. Ho 30 secondi di tempo per farla rispondere, Picciolini, ad un'ultima domanda. Parlavamo delle azioni legali contro le banche con le quali abbiamo sottoscritto un investimento di questo tipo, e le risulta che sul caso Lehman Brothers ne siano già state intentate? Sì, qualcosa è stato fatto, ma io qui andrei anche in questo caso, come fa sempre la mia associazione, andrei sempre molto cauto. Certo. Partiamo da un presupposto che le notizie su Lehman negative erano intorno a, le prime notizie negative erano intorno a febbraio-marzo del 2008, poi è successo il crack, diciamo, dall'agosto in poi, per arrivare poi purtroppo al 6 di ottobre, sì, quando è successo. Per non aprire poi la parentesi patti chiari, che qua la richiudo subito. Esatto, ecco. Esatto, su cui abbiamo fatto anche altre trasmissioni su questo argomento. Quindi io, andando indietro, andrei molto molto cauto, sempre che appunto non siano state rispettate aspetti formali, MiFID, firma del contratto, consegna del contratto, ma sotto l'aspetto del rischio io andrei molto molto calmo. Ricordo a me stesso che Lehman era il lead manager, ovvero era l'organizzatore fino a pochi anni prima anche di prestiti per la Repubblica Italiana, quindi sì, non c'erano questi rischi, anzi era un investimento ritenuto molto molto basso. Professor Stano mi richiede il microfono in 10 secondi perché devo chiudere. Ma io in nessuna delle mie cause ho mai tratto argomento dal fatto che successivamente le società siano fallite, perché quello è sicuramente un problema di senno, certo, del poi. Il discorso va valutato al momento dell'operazione, cioè il momento dell'operazione, la documentazione, le informazioni date dal cliente, eccetera. Quello che è successo dopo, prevedibile o imprevedibile, secondo me non ha nessuna rilevanza, io non ho mai sollevato questo benissimo problema. grazie molto, io tornerò naturalmente su questi argomenti con calma più avanti. Grazie al professor Spano per essere stato con noi, a Fabio Picciolini. Noi torniamo domani. Buona giornata.